La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi. Conoscete già due angoli. Uno misura 70 gradi, l'altro 50. Calcolate quanto misura il terzo angolo e poi chiedetevi quale dei tre è il più acuto.